Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia, benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Oggi sarete con me, domani torna Sebastiano Barisoni. I temi dei quali parleremo oggi, ovviamente torneremo su quella che è la notizia economica di giornata, che sono i dati diffusi dall'Istat sul mercato del lavoro. Ne ha già parlato e li ha già analizzati ampiamente Oscar Giannino nella sua trasmissione dalle 16.30 alle 17. Noi ci torneremo più avanti nella seconda parte della trasmissione, appunto parleremo di questi dati che sono stati diffusi oggi dall'Istat, che parlano di 189.000 occupati in più nel secondo trimestre dell'anno. Sono dei dati positivi che si accostano però ad un andamento dell'economia che è negativo, cioè in questo secondo trimestre di crescita zero abbiamo l'occupazione che cresce di 189.000 unità ed è un elemento interessante e da analizzare. Quindi cercheremo in realtà di allargare il quadro e di non soffermarci solamente su questi dati, ma dare un'occhiata più in generale all'economia italiana. Lo faremo come spesso ci capita in questi casi, con un economista. Nella fattispecie si tratta di Francesco Daveri. Come vi dicevo, questo lo faremo nella seconda parte della trasmissione. Nella prima parte apriremo occupandoci invece di pensioni, l'altra notizia di giornata, l'altro tema del quale si sta dibattendo, l'altra questione sulla quale si stanno interrogando molti italiani, che proprio in questi minuti stanno facendo due conti in tasca e stanno dicendo: beh, insomma, mi conviene o non mi conviene questa cosa qua, questo APE, questo anticipo pensionistico sul quale governo e sindacati sembra che stiano trovando un accordo. Cercheremo di capirne di più con il collega del Sole 24 Ore, che segue sempre queste cose, Davide Colombo, per farci raccontare un po' come funzionano i meccanismi. Sentiremo anche le voci dei sindacalisti che abbiamo raccolto all'uscita dall'incontro al Ministero del Lavoro. Giusto per anticipare qualcosina, l'anticipo pensionistico sarà gratuito per i disoccupati e i lavoratori in condizioni disagiate, oscillerà tra i 50 e i 60 euro al mese per 20 anni per chi percepisce una pensione di 1000 euro e a salire appunto per anche a seconda ovviamente della durata di questo anticipo pensionistico. Sta parlando tra l'altro in questi minuti proprio il sottosegretario Nannicini, che dice forse l'età di anticipo sarà a 63 anni, ma l'asticella è da definire e quindi non abbiamo ancora una chiarezza definitiva su tutto questo. Quindi anche di pensioni parleremo. L'altro grande tema che riguarda l'economia italiana in queste ore, in queste settimane, senza dubbio quello delle banche. C'è il caso del Monte dei Paschi da una parte, l'addio anche brutale dell'amministratore delegato Fabrizio Viola in una fase piuttosto delicata nella quale si sta pianificando una maxi vendita di sofferenze, che sono i crediti non più esigibili, da oltre 27 miliardi, e dall'altra parte c'è quella che il Wall Street Journal identifica come una debolezza non solamente italiana ma europea, in un articolo uscito proprio oggi sul quotidiano, che è Unicredit, dove ovviamente non è che ci siano rischi immediati o particolarmente drammatici, si dice semplicemente che la banca italiana è in maggiore difficoltà per una serie di motivi. Il Wall Street Journal sostiene che è difficile che Unicredit possa evitare l'aumento di capitale e potrebbe creare un problema non solo all'Italia, ma per la dimensione anche europea che ha Unicredit, avere un impatto su un sistema finanziario europeo che è di suo piuttosto fragile. Infine, ci occuperemo anche di petrolio. Abbiamo visto un calo nella giornata di venerdì, anche oggi siamo partiti con un calo, poi adesso c'è stato un lieve rialzo. Vogliamo capire dove andrà a finire appunto il greggio in questo 2016, per quanto se ne può capire evidentemente, visto anche quello che sta succedendo in Libia. Per quanto riguarda i mercati, FTSE MIB meno 1,9%, FTSE Share meno 1,8%, in una giornata complessivamente negativa per tutte le borse europee, Francoforte meno 1,5%, Parigi meno 1,36%, Londra meno 1,29%, e meno male che è arrivata l'America, che con la sua apertura, Dow Jones più 0,21%, Standard & Poor's più 0,36%, ha rimesso un po' le cose a posto, perché a metà giornata Milano perdeva circa il 3%. Per quanto riguarda i singoli titoli, giusto per darvi un'idea, poi come al solito sarà tema di approfondimento insieme ai colleghi di Radio Core, il Sole 24 Ore, Unipol meno 3,8%, Unicredit meno 3,5%, Monte dei Paschi meno 3,3%, e anche qua le ritroviamo, le banche di cui parlavamo prima, Saipem meno 3,2%, UbiBanca meno 3,06%, Azimut meno 3,04%, Exor meno 3,01%, si salvano in questo momento solamente Moncler più 1,25%, Italcementi più 0,19%, sul listino principale. Tutti gli altri titoli sono in negativo. 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, le notizie in breve di oggi. Fatemi iniziare inusualmente, proprio dai 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, fatti insieme ad RDS, prima ancora di andare alle materie prime e a tutto il resto, proprio perché è una giornata di mercati piuttosto pesante, e vale la pena sentire che cosa succede. Oggi sono a cura del vice direttore del Sole 24 Ore, Alessandro Plateroti. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Anche oggi una giornata di passione sui mercati finanziari, come tutto lasciava prevedere già venerdì, quando un tonfo del 2%, soprattutto a Wall Street, ha lasciato pensare che il nervosismo degli investitori non si sarebbe esaurito col weekend. Eppure anche questa mattina vendite pesanti in Europa, vendite meno forti negli Stati Uniti, ma pressioni comunque ribassiste che nascono da una corsa che è stata fin troppo forte dopo il referendum di Brexit. Tutti pensavano a una sorta di catastrofe dopo quel voto inglese, in realtà non solo non è successo niente, ma il mercato ha continuato a correre senza curarsi né delle incognite che ci sono nelle economie mondiali, ma soprattutto senza curarsi del fatto che prima o poi la manovra straordinaria delle banche centrali sarebbe ritornata in porto. Non ci sono segnali a breve che l'Europa possa interrompere il finanziamento delle banche e dei sistemi finanziari, ma tanto basta al mercato per dire forse è ora di tirare in barca. Che cosa succederà nei prossimi giorni? Molto dipende dalle parole che diranno non soltanto le autorità europee quanto alle politiche di bilancio e di sostegno dell'economia, ma soprattutto quello che diranno i banchieri centrali. Nei prossimi giorni parleranno non soltanto Draghi, ma soprattutto anche i rappresentanti della Federal Reserve, dove lì si parla seriamente di aumentare i tassi di interesse. Per concludere, l'invito che fanno tutti quanti gli analisti e gli investitori è quello di essere molto prudenti, di non cominciare a pensare che la corsa dei titoli sia infinita e che soprattutto, dopo tanta festa, sia cominciata l'ora di tirare i remi in barca e di pensare un po' di più alla prudenza. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Oh, vedo che iniziano ad arrivare già degli sms sul tema delle pensioni. Con calma a qualcosa proveremo a rispondere, tenendo presente sempre che questa è una trasmissione più di cronaca, per così dire, che di servizio. Avremo tempo nelle nostre trasmissioni un po' più di servizio, come per esempio Cuore e Denari, magari di rispondere nelle prossime settimane, quando avremo le cose più chiare alle vostre domande specifiche per quanto riguarda l'anticipo pensionistico, che peraltro, ripeto, non è che è un accordo firmato al momento o una legge fatta e finita. Materie prime, si diceva, l'oro in lieve calo a $1,325,8 l'oncia, petrolio dopo un calo ha preso la via del rialzo, torneremo sul greggio più avanti, il WTI guadagna l'1,2% a $46,4 al barile. Il Brent con consegna novembre l'1,15% a $48,5 al barile. Oh. Tra le notizie di oggi, il fatto che le forze armate libiche hanno preso il controllo dei porti petroliferi di Zueitina, Brega, Sidra e Ras Lanuf, sottraendoli alle guardie delle installazioni fedeli al governo di unità nazionale di Sarraj, sostenuto dall'ONU, e forze armate libiche si intendono quelle legate al generale Khalifa Haftar di Tobruk. Quindi la situazione è ancora decisamente instabile in Libia. A proposito di petrolio, c'è la notizia che l'Eni ha raggiunto una produzione di 20 milioni di metri cubi di gas al giorno, che corrispondono a 128 mila barili di olio equivalente al giorno dal giacimento di Nuros, scoperto in Egitto a luglio del 2015 nell'offshore del delta del Nilo e messo in produzione a settembre 2015. Continuano ad arrivare notizie di fusioni e acquisizioni anche importanti, l'avete sentito anche poco fa in GR24, HP ha chiuso l'accordo per rilevare da Samsung la divisione che produce le stampanti per oltre $1 miliardo, si è in attesa il via libera delle autorità di regolamentazione, dovrebbe essere completata tutta l'operazione entro 12 mesi. Il mese scorso HP aveva riportato un calo del fatturato generato dalle forniture di toner e inchiostro pari al 18% nel terzo trimestre fiscale, quello legato alle stampanti è sceso, dunque evidentemente ha ritenuto opportuno rilanciare prendendosi un pezzo della concorrenza. Oh, si parlava di Brexit prima, ne parlava Alessandro Platerotti nei 100 secondi. Il primo rapporto pubblicato dalle British Chambers of Commerce dopo il voto sulla Brexit indicano che la Gran Bretagna eviterà la recessione, ma ci saranno forti turbolenze. Il PIL dovrebbe crescere dell'1,8% nel 2016 contro una stima pre-Brexit del 2,2%, dell'1% nel 2017 rispetto al 2,3% previsto precedentemente, e risalire l'anno successivo all'1,8% rispetto al 2,4% previsto inizialmente. Tra l'altro arriva l'avviso di Standard & Poor's, dice rimanete con i piedi per terra dopo gli ultimi dati positivi sull'economia che sono arrivati dalla Gran Bretagna, perché la ripresa potrebbe essere di breve durata. Ossia, i dati positivi di agosto potrebbero essere solo un miraggio nel lungo termine, testuali parole di Standard & Poor's. Da Bruxelles arrivano notizie dell'indagine della Commissione europea sul contratto dell'ex presidente della Commissione José Manuel Durão Barroso con Goldman Sachs per verificare che non vi sia conflitto di interessi. Juncker vuole avere più elementi per formarsi un'opinione su un incarico che ha sollevato più di una preoccupazione. Aggiunge la Commissione europea, Barroso non godrà più dei privilegi da tappeto rosso, ma sarà trattato come qualsiasi altro lobbista e per essere ricevuto dalla Commissione europea dovrà iscriversi su uno speciale registro della trasparenza. Goldman Sachs replica... Abbiamo aderito a tutte le norme di legge vigenti e agli standard etici più alti per l'incarico. Qualche notizia dall'Italia. Il Tesoro ha assegnato in asta tutti i 6,7 miliardi di euro dei BOT ad un anno con tassi in rialzo a meno 0,175 da meno 0,190 il collocamento di agosto. La domanda ha raggiunto i 9,693 miliardi. Abbiamo i dati sull'occupazione che vi abbiamo dato, più 189.000 occupati nel secondo trimestre, crescita occupati al top nel mezzogiorno più 1,4%, la disoccupazione che scende all'11,5% e quella dei giovani che scende al 35,5%. Roberto Monducci dell'Istat, intervistato da Livia Zancanella. Su base annua questo aumento è pari a 439.000 occupati in più, quasi la metà sono occupati tra i 15 e i 34 anni, quindi rispetto all'anno scorso è stato un forte ingresso nel mercato del lavoro come occupato di giovani, questo è un aspetto assolutamente rilevante. La motivazione non l'abbiamo avuta, però sostanzialmente abbiamo un elemento che è dato dalle transizioni tra le precedenti condizioni, ad esempio da dipendenti a termine a dipendenti a tempo indeterminato, che passara dal 19% al 24%. Un altro aumento ha riguardato la transizione da collaboratore a tempo indeterminato, 5 punti percentuali in più. Secondo lei sul terzo trimestre influirà la battuta d'arresto di luglio? Onestamente non abbiamo elementi per dire se quel dato negativo rappresenta in qualche modo un'inversione o è un momento di irregolarità in un trend di crescita. Certo, le condizioni macroeconomiche ci dicono che il PIL nel secondo trimestre è rimasto stazionario. Devo dire però che la stazionalità del PIL è derivata soprattutto dalla battuta d'arresto dell'industria, mentre i servizi, che tipicamente assorbono molta occupazione, hanno continuato a crescere. Quindi abbiamo un quadro molto variegato e direi che in questo momento è difficilissimo fare una previsione sul terzo trimestre. Così dunque Roberto Monducci dell'Istat nella sua analisi sui dati di oggi. Parla anche Renzi, dice il Jobs Act funziona, 585.000 posti in più in un anno, sta diventando il paese per giovani ma c'è da fare. E poi ha parlato anche di abbassamento delle tasse. È l'Italia che ha bisogno di investire sul futuro. È l'Italia che ha bisogno di non accontentarsi della grande storia del nostro passato. Per farlo però bisogna avere alcuni elementi concreti. Prima abbiamo visto i numeri della Prismia, 2013-2016. Il costo del lavoro è abbassato a parità di personale, quindi questo è molto importante, anche grazie alle prime misure, gli incentivi, il Jobs Act e la riduzione soprattutto dell'IRAP, componente costo del lavoro. Lo dico a tutti i teorici, non bisogna abbassare le tasse, bisogna fare gli investimenti. Se non si abbassano le tasse, quando si fanno gli investimenti concorreranno soltanto aziende non italiane o comunque con non sede in Italia. Abbassare le tasse è l'ABC, la priorità per rendere più competitivo il nostro sistema. In parte ha ragione Francesco da Napoli, che ci dice scusatevi, sms al 349-238-6666, dice scusate, non mi pare che la Brexit sia iniziata né inizierà a breve, come vedere gli effetti economici di qualcosa che ancora non c'è. Allora, in parte ha ragione sicuramente, perché gli effetti poi pratici, effettivi non ci sono. Dall'altra parte c'è un effetto psicologico e di fiducia che, come sappiamo, in economia conta molto più di qualcosa. A proposito di questioni europee, so che se ne è parlato nei giorni scorsi anche a questi microfoni con Sebastiano Barisoni, il tema della Germania e del suo surplus di bilancio che viola le norme europee tanto quanto il deficit eccessivo. Anche su questo è tornato Renzi. Sì che servono gli investimenti, ma lo voglio dire da qui, da Battipaglia. Noi abbiamo bisogno di un'Europa che faccia gli investimenti. Alcuni paesi hanno un surplus primario troppo alto. Noi non diciamo a questi paesi che devono ridurre le esportazioni. Per carità di Dio, se esportano evviva. Da europei siamo felici e contenti. Ma così come noi facciamo la nostra parte nel rispettare le regole di Maastricht del deficit, occorre che tutti facciano la loro parte nel rispettare le regole europee sul surplus primario. Passiamo al primo tema che affronteremo oggi, che è quello delle pensioni, l'incontro tra il governo e i sindacati sulle misure previdenziali da inserire nella manovra di bilancio. Al centro l'anticipo pensionistico APE. Lascia sempre un po' perplesso questa cosa qua, che a Milano viene usato come diminutivo di aperitivo, quindi... Dovrebbe essere gratuito per i disoccupati e i lavoratori in condizioni disagiate, mentre oscillerà tra i 50 e i 60 euro al mese di costo per 20 anni per chi percepisce una pensione di 1000 euro e lo chiederà per un anno. Salirà ulteriormente se durerà 3 anni, fino a quanto pare a 150-200 euro al mese. Davide Colombo del Sole 24 Ore, ciao Davide, buonasera. Buonasera a voi. Non è una cosa convenientissima, eh? Ma appunto qui si tratta di vedere, come dire, la misura una volta pubblicata in Gazzetta, vedere a gennaio cosa succede. Effettivamente si tratta appunto di fare un po' di conti in tasca, è una opportunità. D'altra parte, come dire, abbiamo sentito nella parte prima della trasmissione che ci sono dei vincoli di finanza pubblica, no? Allora, introdurre una maggiore flessibilità per l'anticipo della pensione in un paese nel quale sappiamo che la voce di spesa corrente, che aumenterà con certezza nei prossimi 5 anni a legislazione invariata, è proprio quella per le pensioni, è abbastanza complicato. Quindi questa è una formula sicuramente innovativa, con sicuramente non precedenti nei paesi dell'Eurozona, e vediamo come che tiraggio avrà, che adesioni avrà. Quindi non è mai stata fatta questa cosa, Davide? Ma io nel mio piccolo ho provato a fare una ricognizione sulle banche dati che monitorano le politiche pensionistiche dei principali paesi europei. Una formula di questo tipo non l'ho trovata. Fonti vicine al dossier, come si dice in gergo, mi hanno confermato che effettivamente non ci sono molti esempi simili, appunto è una sperimentazione. Tra l'altro la norma, ecco, questo noi l'abbiamo scritto diversi mesi fa, forse vale la pena ricordarlo, partiamo con una sperimentazione di 2 anni, cioè non parte subito a regime. E quindi appunto ha le caratteristiche di una sperimentazione che ha una platea potenziale molto importante, perché nei primi 3 anni potrebbero essere fino a 350.000 i lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico che possono avere un'idea di optare, basta avere questo è, diciamo, chiariamolo, questi 350.000 è il pubblico potenziale, cioè i cittadini potenzialmente come dire, che potrebbero far parte di questa platea. Ovviamente poi starà a loro decidere, no? Sì, sono coloro che da gennaio hanno 63 anni di età e almeno 20 di contributi versati e sono lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato. Non so se questa platea contiene anche una platea stimata dallo stesso sottosegretario Nannicini in una nostra intervista, non so se contiene anche gli autonomi, ai quali pure l'accesso all'APE è previsto con i medesimi requisiti, cioè basta avere da gennaio 63 anni, avere 20 anni di versamenti. E appunto, come illustravi prima, alcune figure tipo di costo, se decidi di un anticipo di un anno può costarti 50-60 euro al mese nel ventennio successivo per una pensione attorno ai 1000 euro, fino a salire alle cifre che dicevi prima se fai un anticipo di 3 anni. Questo è lo schema, diciamo. Certo. Allora Davide, ti interrompo un attimo, così vediamo di dare la pausa anche al meteo e la linea al meteo in un orario decente. Poi ti vorrei girare un paio di domande di ascoltatori che ci stanno arrivando, alcune forse un po' più di servizio, ma vediamo se siamo in grado di rispondere. All'ascoltatore Roberto che mi dice: lei sulle pensioni ha un'idea migliore. Sinceramente non sono un esperto di pensioni e quindi al momento non mi viene in mente un'idea migliore. Dico semplicemente che se uno vuole andare in pensione 3 anni prima e ci deve mettere un carico di 200 euro al mese, beh, dipende da che pensione prende, però potrebbe essere estremamente poco conveniente, in tutta sincerità. Poi dipende da come la vive il singolo lavoratore. Pausa. State ascoltando un programma offerto da... Se nella tua azienda c'è Inaz, c'è solo il bello del lavoro. www.inaz.it. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo, ancora a parlare di pensioni per chiudere un attimo il capitolo, almeno per il momento. Ovviamente è tutto ancora in discussione, come vi stavamo dicendo. 349-238-6666 per gli sms, per i messaggi su WhatsApp. Da quel che apprendiamo, giusto per chiarire i contorni della cosa, potranno uscire dal lavoro nel 2017 coloro che sono nati fino al 1954, una volta compiuti 63 anni. Ci chiede un ascoltatore, Davide Colombo, se questa cosa varrà anche per ingegneri e architetti. Mi sembra sia un provvedimento onnicomprensivo, questo abbiamo capito, è forse la novità più interessante delle ultime ore, no? Che vale per tutti, non solamente per i dipendenti. Sì, dunque, l'APE vale per tutti. Questa è una domanda interessante, perché invece non vale per i professionisti, cioè quelli che prenderanno una pensione da una cassa privatizzata, la misura sulle ricongiunzioni non onerose, cioè la possibilità di mettere insieme i versamenti effettuati su gestioni diverse, perché nella vita attiva si è lavorato in ambienti diversi, in contratti diversi. Ecco, questo sarà possibile per i lavoratori che prenderanno la pensione dall'INPS, ma non quelli come gli ingegneri e gli architetti che citavi, perché prenderanno una pensione dalle loro casse privatizzate. Quindi non potranno usufruire, come dire, di questa misura. Invece potranno usufruire dell'APE. Ah, potranno usufruire dell'APE, quindi. Ok, perfetto. No, perché la domanda era esattamente questa: se potranno usufruire dell'APE gli ingegneri e gli architetti. Sì, potranno. Questo sì. Potranno, effettivamente. Va bene, qualche ascoltatore dice: dopo 40 anni voglio i miei soldi. E qualche altro ascoltatore ci chiede se ci sono novità per i lavoratori precoci, che tu sappia. Per i lavoratori precoci ancora non c'è una novità, non è uscita una novità da questo tavolo, perché quello lì è, diciamo, il dossier più costoso, nel senso che la platea di lavoratori che con la normativa attuale possono essere riconosciuti come precoci, e cioè che hanno lavorato almeno un anno prima di aver compiuto i 18 anni, è notevole. E quindi, come dire, consentire una forte semplificazione in uscita anticipata per queste categorie farebbe un po' aumentare il costo delle coperture. Stiamo parlando di interventi complessivi che dovrebbero stare dentro i 2 miliardi, un miliardo le misure per rafforzare la 14ª mensilità, diciamo, forse aumentare un po' la no tax area, 1 miliardo per appunto i pensionandi, cioè APE, ricongiunzioni non onerose, forse una semplificazione ulteriore per allargare le maglie per i lavoratori impiegati in attività usuranti. Ma qui si ferma la dote, ritorniamo appunto al problema che dicevamo prima, cioè una dote molto cassa, limitata. Che è un problema di cassa, molto semplicemente. Di casa dello Stato e di quello che puoi fare molto semplicemente con i quattrini che hai al momento. Io ti ringrazio intanto, grazie a Davide Colombo. Sappiamo benissimo che non abbiamo esaurito tutte le vostre curiosità su questo tema, ma ripeto, questa è anche una trasmissione di cronaca e non espressamente di servizio. Tra l'altro non abbiamo ancora un provvedimento in mano, ma sono solo le discussioni, le indiscrezioni, le idee di massima che stanno arrivando tanto dal governo quanto dai sindacati. Abbiamo una definizione di massima di quelli che sono gli interventi, e però appunto dettagli specifici anche sulle singole categorie di lavoratori, perché poi ci stanno arrivando domande anche su questo, non le abbiamo, ma molto semplicemente perché non ci sono. Siamo alla borsa che chiude Milano con un calo dell'1,84% sul FTSE MIB, dell'1,8% sul FTSE All Share. Francoforte meno 1,34%, Parigi meno 1,15%, Londra meno 1,12%. Come si diceva prima, meno male che è arrivata l'America, il Dow Jones guadagna lo 0,43%, lo Standard & Poor's 500 lo 0,6%, perché a metà giornata era veramente un disastro, con Milano che è arrivato a perdere quasi il 3%, e male facevano, perdevano più del 2% anche le altre borse europee. Guido Maurino, Radio Cuore Sole 24 Ore, ciao, buonasera. Ciao, buonasera a voi. Da cosa è stata guidata questa giornata? Ma è stata guidata soprattutto dall'attesa per quello che farà la Fed la prossima settimana, il 20 e il 21 settembre. Ci si continua a domandare se sarà settembre il mese in cui verranno rialzati i tassi negli Stati Uniti. Venerdì, sulle indicazioni che aveva dato uno dei membri della Fed, il membro della Fed di Boston, che aveva parlato di condizioni ragionevoli per pensare a un rialzo dei tassi, i mercati erano caduti in modo abbastanza rovinoso, contiamo che Wall Street ha ceduto oltre il 2%, facendo il risultato peggiore da 2 mesi. Oggi invece altri membri della Fed hanno parlato, ha parlato il membro della Fed di Atlanta e quello di Minneapolis, che sono parsi molto più prudenti, hanno spiegato di non voler dare indicazioni a un mercato così volatile, ma sono anche parsi più prudenti rispetto alla prospettiva di un rialzo dei tassi. Questo ha fatto sì che Wall Street abbia aperto sostanzialmente prima in leggero calo e poi via via si è migliorata, e questo ha consentito anche alle borse europee, diciamo così, di respirare dopo essere arrivate, come Milano ricordavi tu, che era arrivata, sì, a perdere quasi il 3%, alla fine ha chiuso a meno 1,8%, sostanzialmente si è evitata un po' una debacle. Una debacle più forte. E tra i titoli negativi, Unipol meno 4,02, bancari, tra l'altro tra poco ci arriveremo ai temi di Unicredit e di Monte dei Paschi, rispettivamente meno 3,76 e meno 3,43% oggi, giù anche Unipol SAI, meno 3,19, Mediaset meno 3,11, Iux Net-a-Porter meno 3,08, Fineco meno 2,9, Banco Popolare meno 2,9. Arriveremo ai singoli titoli, ma lo facciamo tra un attimo. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo per chiudere il nostro appuntamento con la borsa. Guido, non ti interrogo, per così dire, su Unicredit e Monte dei Paschi. Grazie. Perché abbiamo già qua Luca Davi in studio con noi del Sole 24 Ore, con il quale approfondiremo esattamente il tema di queste due banche. Ti chiedo invece di Saipem innanzitutto. Allora, per quello che riguarda Saipem, che ho già ceduto il 3,77%, ha risentito un po' della debolezza del settore energetico, l'abbiamo visto anche con Eni che ha ceduto l'1,53%. Il tema è ancora il prezzo del petrolio, un prezzo che dopo aver avuto un piccolo sussulto sul finire della scorsa settimana, oggi era tornato a cedere in modo importante, proprio perché i dati sulle scorte degli Stati Uniti sono stati letti in un modo non favorevole per quello che riguarda i prezzi. Sul finale si è un pochettino risollevato il prezzo, e anche Saipem ed Eni, che erano fra i titoli peggiori a metà giornata, ne hanno in qualche modo beneficiato, pur chiudendo in calo. Pur chiudendo in calo, appunto, Saipem meno 3,77%, Eni appunto meno 1,5%. Telecom Italia. Per quello che riguarda Telecom Italia, che ha ceduto l'1,93% oggi, il mercato si interroga un po' sulle strategie che sta cercando di adottare la Commissione europea per quello che riguarda le politiche di roaming. Una prima bozza sembrava far pensare che la cancellazione del roaming fra i diversi paesi fosse solo limitata a un certo periodo, 90 giorni l'anno. Questa bozza è stata ritirata e sembra che arriverà un nuovo documento che sarà ancora più a vantaggio dei consumatori, per cui il roaming verrà cancellato non per 90 giorni ma per un periodo superiore. alcuni ipotizzano addirittura che verrà cancellato del tutto. Questo cosa vorrebbe dire? Vorrebbe dire che ci guadagnano di meno le telefoniche. Che potenzialmente un consumatore italiano potrebbe avere un contratto di una compagnia telefonica di un altro paese dove è più conveniente. L'ultima domanda: Moncler, che è l'unica insieme a Italcementi che fa un più 0,09%, Moncler fa un più 1,06%, è veramente una mosca bianca nella giornata di oggi. È una mosca bianca perché qualcuno inizia a riposizionarsi, visto che il titolo il 19 settembre entrerà nell'indice Europe Stoxx 600, questo gli darà tutta una serie di visibilità e di presenza nel portafoglio di alcuni fondi, e per questo il titolo sostanzialmente ha guadagnato oggi. E grazie, grazie a Guido Maurino, Radio Cori Il Sole 24 Ore, per appunto la giornata di borsa, la cronaca della giornata di borsa. Veniamo alle banche. Le banche, due nella fattispecie, domani. È una giornata importante per il Monte dei Paschi, che attende la nomina del nuovo amministratore delegato, forse già nella giornata di giovedì. Marco Morelli, sembra quasi certo. Mentre Unicredit torna sotto i riflettori della stampa finanziaria internazionale, a partire da Wall Street Journal, che la definisce come una delle banche, tra le grandi banche ovviamente, una delle banche più deboli, e che potrebbe, i cui problemi potrebbero avere un impatto su un sistema finanziario europeo che di suo è piuttosto fragile. Questa debolezza, secondo il Wall Street Journal, è nel fatto che Unicredit sarà costretta a fare un aumento di capitale, e questo aumento di capitale sarà intorno ai 10 miliardi. Questa è in sostanza la tesi del quotidiano. Luca Davide, del Sole 24 Ore, ciao, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. Partirei da Monte dei Paschi, che tra l'altro deve mettere in campo questa maxi vendita di crediti non più esigibili, di sofferenze, da 27,7 miliardi. Vai. MPS sì, è uno dei tavoli, uno dei temi caldi sul tavolo ovviamente degli advisor, delle banche d'affari e anche del governo, soprattutto che, ricordiamolo, è a primo azionista attraverso il MEF della banca senese. Oggi MPS, nel pieno di un varo di un nuovo piano di salvataggio, del piano di salvataggio definitivo, insomma, che dovrebbe mettere in salvaguardia la banca, in questo momento ha perso il suo amministratore delegato. A giorni, insomma, si ritiene tra mercoledì e giovedì dovrebbe entrare, sedere ti al... Ti interrompo, perdonami, sì. Luca, ti interrompo perché le agenzie battono in questo momento notizia, ecco, che domani all'incontro fissato alla BCE, dai vertici di Monte dei Paschi, ci sarà anche Marco Morelli insieme, esatto, al presidente della banca Massimo Tononi, quindi a questo punto direi... E infatti era quello che infatti stavo per dire, sostanzialmente eravamo in attesa di questa conferma formale, c'era già stata una prevalidazione informale a Francoforte perché il nome già circolava da tempo e si riteneva che questo fosse il momento decisivo per farlo. Andiamo verso una nomina ormai in settimana che verrà sostanzialmente confermata e bollinata dalla Banca Centrale Europea. Marco Morelli ha un passato in MPS, è stato CFO, quindi capo della finanza della banca, ha un'esperienza commerciale perché è stato numero uno della Banca dei Territori di Intesa San Paolo, quindi insomma ricordiamolo che esce da BofA Merrill Lynch, quindi una delle grandi banche d'affari che tra l'altro nel dossier dell'aumento di capitali, quindi un ruolo a 360 gradi che potrebbe essere decisivo proprio per mettere auspicabilmente a posto la banca, che comunque ha diversi, nodi da sciogliere, e tra questi c'è ovviamente il varo di un piano industriale a breve, si ritiene entro fine mese, ma probabilmente Morelli dovrà prendersi qualche settimana in più per rimetterlo a nuovo. C'è soprattutto da decidere quando fare questo benedetto aumento di capitale, e poi appunto, come si diceva, anche la cessione delle sofferenze. Direi che un uomo di finanza da questo punto di vista può essere particolarmente utile, speriamo in bene che lo sia. Abbiamo l'altra banca di cui parlare, ossia Unicredit, e però adesso ci dobbiamo interrompere perché c'è una pausa pubblicitaria, il giornale radio, se volete scriverci il numero è il solito 349-238-6666, tanto per gli sms quanto per i messaggi su WhatsApp. A tra poco, appunto, per parlare di Unicredit, come si diceva, ci sono una serie di quotidiani internazionali, tra cui il Wall Street Journal, ma lo stesso Financial Times, che sostengono che comunque cessioni o non cessioni, questo aumento di capitale Unicredit lo dovrà fare, sarà un aumento di capitale da 10 miliardi. A tra poco. Pierluigi Pardo, confesso che ho perso il numero delle stagioni. Hai perso il conto perché abbiamo una marea di cose: la Champions League, l'Europa League, il campionato, il calcio internazionale, e la Formula 1 che finisce, il moto che finisce, il ciclismo che non finisce mai, il MotoGP, il campionato di calcio. E tutti i giorni, tutti convocati. Guarda, è facile. Tutti i giorni, tutti convocati. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 15.30, c'è anche De Luca. C'è anche De Luca, è il nostro autore, ma certamente. Siamo ormai una squadra affiatata, anche se ho perso il conto delle stagioni di tutti. Siamo una squadra fortissimi. Il segnale orario vi è offerto da... Il 56esimo Salone Nautico vi aspetta a Genova dal 20 al 25 settembre. State ascoltando un programma offerto da... Se nella tua azienda c'è Inaz, c'è solo il bello del lavoro. www.inaz.it. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo buonasera da Simone Spezia, questa è la seconda parte di Focus Economia, 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, per chi si fosse messo in ascolto solo adesso, brevemente solo gli indici di borsa, FTSE MIB meno 1,84%, FTSE OSHARE meno 1,8%. Negative anche le altre borse europee, bene l'America, più 0,36% sul Dow Jones, più 0,5% sullo Standard & Poor's 500. Ci siamo lasciati prima della pausa di GR24 parlando di Monte dei Paschi e dicendo che subito dopo la pausa avremmo parlato di Unicredit, sulla quale, come si diceva, torna a sollevarsi l'attenzione degli investitori internazionali, forse nella forma in questo caso dei grandi giornali internazionali, nella fattispecie del Wall Street Journal, che oggi di Unicredit parlava in un articolo che era al centro della pagina web, cioè nel secondo titolo, ricordando che ci sono una serie di fragilità all'interno di questa banca e potrebbe essere costretta a un nuovo aumento di capitale, appunto, da 10 miliardi di euro. Siamo sempre con Luca Davide del Sole 24 Ore. Allora Luca, un quadro su Unicredit. Ecco, mi dicevi giustamente te, Unicredit è ritornata insomma alla ribalta, non è la prima volta che accade e che ritorna all'attenzione della stampa anglosassone. Perché? Perché anzitutto è una banca sistemica, Unicredit è la principale banca italiana per asset e soprattutto ha dimensioni tali in tutta Europa da essere ovviamente al centro delle attenzioni un po' degli analisti e degli investitori, ma soprattutto per due temi in particolare. Da una parte c'è un problema legato alla tempistica di questo aumento di capitale che dovrà essere varato nei prossimi mesi, il rischio, complice quello che dicevamo prima di MPS, che ci possa essere uno slittamento dell'aumento di Siena sostanzialmente e che vada a collidere con quello che dovrà fare Unicredit. Questo rappresenterebbe un problema proprio per permettere il buon esito dell'operazione. L'altro tema di rilievo su cui un po' gli analisti si stanno concentrando è anche un po' quello invece della dimensione. Si è sempre parlato di un ammontare compreso tra i 7 e gli 8 miliardi. Ultimamente, oggi di nuovo l'articolo del Wall Street Journal lo sottolineava nuovamente, il rischio che possa essere superiore. Sarà così? Non lo sappiamo ancora. Ovviamente al lavoro sul piano industriale è il nuovo CEO di Unicredit, Moustier, e proprio a valle di questa operazione si capirà quale sarà l'ammontare finale di questa ricapitalizzazione. Tutto dipenderà ovviamente dalle cessioni che la banca riuscirà a portare a termine. Tra queste ci sono ovviamente la controllata in Polonia, che è Pekao, che in queste settimane è al centro di una trattativa con la compagnia assicurativa PZU, c'è Pioneer, che è la società di asset management, di società di gestione del risparmio di Unicredit, e anche questa in questi giorni, l'abbiamo raccontato su Sole 24 Ore, potrebbe essere oggetto sostanzialmente di una cessione. Tra gli interessati potrebbero esserci tra l'altro Poste Italiane e Banca Generali. Pioneer è un salvadanaio grandissimo del risparmio degli italiani, insomma. 3 miliardi è la valutazione di massima che potrebbe, insomma, esserci per questa controllata. E poi c'è soprattutto il tema delle cessioni e delle sofferenze. Unicredit ha 20 miliardi di crediti in sofferenza malati da cedere, in virtù del prezzo che riuscirà sostanzialmente a trattare, a raggiungere sul mercato. A quel punto si capirà anche quale sarà l'ammontare di aumento di capitale da riuscire a portare a casa. È, insomma, come dire, un puzzle molto complesso e tutti i tasselli devono andare al loro posto. E vedremo come andranno a posto questi tasselli nei prossimi mesi. Comunque una ripresa di settembre non semplicissima, né per Monte dei Paschi né per Unicredit. Per nulla. Intanto ti ringrazio. Grazie a Luca Davide del Sole 24 Ore per essere stato con noi, per averci aiutato ad approfondire appunto i casi di Monte dei Paschi e di Unicredit. Appunto, riflettori puntati almeno per il momento. Vedremo come andranno le cose. Ora ci occupiamo di petrolio. Dunque, dopo l'accordo raggiunto al termine del G20 tra Russia e Arabia Saudita sulla stabilizzazione del mercato del greggio, il petrolio torna a scendere. Oggi in realtà negli ultimi minuti abbiamo visto un rialzo, però diciamo il trend e la tendenza è quella. Siamo in questo momento per il WTI a $46,3 al barile, consegna ad ottobre. Per quanto riguarda il Brent, qua abbiamo la consegna a novembre, $48,4 al barile. Sissi Bellomo del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera, sì, molta volatilità sul mercato effettivamente. Complessivamente molta volatilità e vedi questa tendenza al ribasso tu? Ma è difficile a dirlo, perché il mercato comunque è in allerta per la possibilità, che non si può mai escludere, che effettivamente a fine mese, quando i paesi dell'OPEC, la Russia e altri produttori non OPEC si vedranno a margine del Forum Internazionale dell'Energia ad Algeri, che effettivamente possano arrivare a una qualche forma di accordo. Sicuramente il tentativo da settimane, e che sembra un po' la fotocopia di quello che succedeva tra febbraio ed aprile, prima del famoso vertice di Doha che poi è fallito, il tentativo, insomma, è di sostenere il mercato a colpi di dichiarazioni. Per adesso sono parole, non c'è nulla di concreto, e anzi molti analisti sono scettici sulla possibilità che effettivamente possano incidere, anche se poi alla fine dovessero accordarsi su qualche cosa. Il surplus di petrolio sul mercato è grosso, anche se dovessero congelare la produzione sui livelli attuali, tanto bisogna vedere se tutti rispetterebbero gli accordi, ma anche se fosse la produzione attuale è altissima, per cui non inciderebbe che comunque. Che è quello Sissi che abbiamo raccontato altre volte anche da questi microfoni. Il fatto è che di petrolio sul mercato in questo momento ce n'è troppo. Tra l'altro la novità di oggi è che la stessa OPEC, nel suo consueto rapporto mensile preparato dal suo ufficio studi, che comunque fa degli studi accurati, insomma, loro stessi prevedono, hanno rivisto le aspettative per quest'anno e il prossimo, e per il prossimo si aspettano ancora un eccesso di petrolio grossissimo. Hanno rivisto a rialzo queste previsioni sulla produzione non OPEC. In particolare entrerà finalmente in funzione, a quanto pare, Kashagan, il tormentatissimo giacimento dell'Eni in Kazakhstan, e questo ha indotto a rivedere un po' le previsioni e a pensare che niente, ci aspetta un altro anno di surplus. A questo punto l'OPEC dovrebbe cercare di tagliare la produzione se vuole incidere in qualche modo, però se taglia la produzione e il prezzo dovesse risalire troppo, c'è la variabile shale oil, che a quel punto, già adesso stiamo vedendo da settimane, stanno rimettendo in funzione trivelle petrolifere. È un mondo molto diverso da quello a cui eravamo abituati anni fa. che non ha più l'equilibrio che aveva prima, pur se era un equilibrio monopolistico, è un sostanzialmente diverso, no? È un equilibrio diverso, è entrato in campo questa novità enorme, veramente storicamente dirompente sul mercato dello shale oil, che intanto resiste molto meglio di quanto si aspettasse l'OPEC e si aspettassero molti altri, anche se rispetto all'anno scorso siamo 1 milione di barili al giorno in meno, quindi non è che non è che resista e basta, però certamente è molto flessibile, il nuovo swing producer, come direbbero gli esperti, che a quanto pare sembrerebbe in grado di tornare in funzione non appena i prezzi risalgono. Ormai il break even è basso, con $40 al barile, $50 al barile arrivano a break even e rimettono in funzione trivelle. E quindi è un circolo vizioso. È un circolo vizioso. Sì, un'ultima domanda. In quest'ambito, oggi abbiamo visto un po' di notizie arrivare dalla Libia, dove il generale Haftar ha detto che controllano 4 porti strategici per il petrolio. In quest'ambito, a questo punto, che la Libia torni a produrre a pieno, non torni a produrre, conta e non conta? Bravissimo. Questo è il succo di tutto quanto dal punto di vista dei mercati del petrolio. Se qualcuno si fosse illuso che la Libia fosse vicina a tornare a esportare di più, a produrre di più, gli ultimi sviluppi allontanano questa prospettiva, che comunque io la chiamerei illusione più che aspettativa vera. Le forze del generale Haftar avrebbero ripreso il controllo di 2 porti importanti, Ras Lanuf e Sider, sostengono di aver ripreso anche Zuetina e Brega. Di fatto però questi porti non esportano nulla in alcuni casi, o esportano pochissimo a singhiozzo da anni ormai, quindi non è cambiato niente. Quello che cambia sono le prospettive per una pacificazione del paese che si sperava si potesse avere, e quindi anche per un ritorno all'esportazione di petrolio, che mentre abbasserebbe ulteriormente i prezzi del barile, però porterebbe nelle casse della Libia denaro che è vitale, perché la Libia dipende solo da quello. Allora, io ti ringrazio, grazie a Sissi Bellomo del Sole 24 Ore per questi chiarimenti e per questa analisi. Noi adesso ci fermiamo, sentiamo cosa succede sulle strade e poi torniamo a parlare dei dati di oggi sul mercato del lavoro. 189.000 occupati in più nel secondo trimestre, in una situazione curiosa, perché il secondo trimestre è stato a crescita zero e nonostante questo l'occupazione è cresciuta. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo, 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp. Parliamo dunque di lavoro. Sono arrivati segnali positivi oggi, nonostante la frenata del PIL nel secondo trimestre. Più 189.000 occupati appunto nel secondo trimestre del 2016, più 0,8% rispetto al trimestre precedente, dinamica positiva dunque, e che riguarda, dice l'Istat, tutte le tipologie, è più sostenuta per i servizi, un po' meno per l'industria in senso stretto. E riguarda anche tutte le tipologie contrattuali, dai dipendenti a tempo indeterminato, che però crescono poco, più 0,3%, quelli a termine crescono del 3,2% e gli indipendenti dell'1,2%. Francesco Daveri, docente di politica economica all'Università Cattolica di Piacenza, editorialista del Corriere della Sera. Buonasera, professor Daveri. Buonasera. Allora, la prima domanda che le voglio fare è, se vuole, una curiosità. Noi abbiamo parlato molto in questi anni di crisi difficile, di jobless recovery, ossia quando vedevamo, in particolare per quanto riguarda l'economia americana e la prima fase di uscita dalla crisi dell'economia americana, di una ripresa che non portava posti di lavoro. E qua, in quest'ultimo trimestre in Italia, abbiamo in realtà il fenomeno contrario, nel senso aumenta il numero di occupati ma la crescita non si vede. Che cosa sta succedendo? Ci può aiutare? Ci sono due fenomeni abbastanza differenti che sono all'opera tra gli Stati Uniti e l'Italia per quanto riguarda la ripresa. Negli Stati Uniti la ripresa è trainata essenzialmente dagli investimenti, da progresso tecnico particolarmente rapido che si traduce in innovazioni che poi noi indossiamo, compriamo nei negozi e così via. Quindi vuol dire che le aziende di fatto vedono aumentare la loro produttività, riescono a vendere in giro per il mondo e questo si traduce in un aumento di produttività, di vendite, che però ha bisogno di meno lavoratori che in passato, almeno rispetto alle riprese del passato. Da noi queste cose sono molto meno evidenti, ci sono perché la globalizzazione naturalmente esporta da tutte le parti queste cose, però la ripresa del mercato del lavoro che vediamo in Italia ha essenzialmente una natura che è data dalla combinazione della cosiddetta decontribuzione con il Jobs Act, che ha portato a persone inattive in passato a decidere di riaffacciarsi sul mercato del lavoro e si sono messe a cercare un lavoro. Molte, o almeno una buona parte di queste, sono riuscite a trovarlo, però le persone che erano fuori dal mercato del lavoro e sono ritornate sul mercato del lavoro è difficile che siano quelle con più alta produttività, ma più probabilmente erano quelle invece con una produttività e salari anche più bassi. Quindi di fatto quello che vediamo è un po' una divaricazione che ci dice anche qualcosa sulla qualità della ripresa degli Stati Uniti, che infatti dura da tanti trimestri, e invece la qualità piuttosto traballante della ripresa italiana. Una qualità bassa, e anche, diciamo, anche chiamarla ripresa è un po' forte, soprattutto visto l'ultimo trimestre, insomma, no? il secondo, professore. Certo, beh, quello però riguarda il PIL e sì. Ahimè, quindi questo vuol dire quindi che siccome ci vuole un po' di tempo perché i dati del PIL vadano a finire nel mercato del lavoro, le stime variano, però diciamo da 3 a 6 mesi, la crescita zero del secondo trimestre si tradurrà in un rallentamento, in un peggioramento di questi dati del mercato del lavoro, che in questo secondo trimestre sono indubbiamente positivi, più o meno da ogni punto di vista, quindi quello che dobbiamo aspettarci è una dinamica sicuramente meno favorevole già dal prossimo trimestre, quindi questo è quello che è nei dati. Però il PIL ha un effetto sul mercato del lavoro, ma ci vuole un po' di tempo, perché le aziende se vendono di meno non è che si mettono subito a licenziare o smettono di assumere, ma ci pensano un po' sopra e poi adeguano le loro richieste solo in funzione di come proseguono le cose, cioè se i fatturati continuano a diminuire e così via. Sì, allora qualche ascoltatore qua, così facciamo un po' di chiarezza anche, no, sui dati Istat. Qualcuno dice i dati Istat sono falsati perché, allora, innanzitutto non sono falsati evidentemente, si basano su persone che hanno lavorato almeno un'ora nell'ultima settimana, almeno un'ora nella settimana, eccetera eccetera. Allora, è tutto vero, però qua ci sono anche i dati che riguardano i contratti a tempo indeterminato e contratti a tempo determinato. Se lei ha un contratto a tempo indeterminato, lo dico alla signora che continua a scriverci un po' ossessivamente, che le chiede di lavorare un'ora a settimana, me lo faccia sapere, perché è veramente una tipologia contrattuale piuttosto interessante. Sull'affidabilità dei dati Istat, sinceramente, sul lavoro, professor Daveri, no, starei abbastanza tranquillo. Sì, poi naturalmente, tra l'altro, proprio i dati trimestrali sono quelli in cui le oscillazioni mensili, che sono ineliminabili, che hanno componenti stagionali e che sono quindi rendono più difficile la lettura dei dati, vengono un po' eliminate perché abbiamo la media sul trimestre nel suo complesso. C'è poi un'altra cosa che va sottolineato. Può essere che si sia più diffuso che in passato il fenomeno dei come mini job tedeschi, che sono certamente arrivati anche da noi e il precariato non è scomparso dalla sera alla mattina. Però se uno conta il numero delle ore lavorate, quello che ci dice l'Istat oggi vede una variazione positiva di 2% in più rispetto al totale delle ore lavorate un anno fa di questi tempi, e anche su base congiunturale si conferma questo aumento dello 0,5%. Quindi non c'è da suonare la tromba, la fanfara, certo, e altri strumenti musicali, però da almeno non chiudere gli occhi di fronte ai dati che ci sono. Ma infatti, tra l'altro non lo facciamo mai, la fanfara non la suoniamo mai. Abbiamo parlato dei dati sui licenziamenti la settimana scorsa, oggi parliamo dei dati che sono arrivati sull'occupazione, punto, come facciamo sempre. La ringrazio, grazie anche per i chiarimenti, come dire, di misurazione. Grazie al professor Francesco Daveri per essere stato con noi, docente di politica economica all'Università Cattolica di Piacenza, editorialista del Corriere della Sera. Visto che abbiamo parlato di lavoro, oggi è il primo giorno di scuola in molte regioni, sarà il primo giorno di scuola in tutte le altre regioni nell'arco della settimana. Parliamo di collegamento tra scuola e lavoro, lo ha fatto Maria Piera Ceci con Giovanni Brugnoli, vicepresidente di Confindustria con delega al capitale umano. Sicuramente è stato l'anno di prova, diciamo l'anno zero per far iniziare quest'anno in maniera più convinta e più adeguata. Ci sono state delle piccole difficoltà organizzative perché come sempre i provvedimenti vanno masticati, capiti e adeguati sulle esigenze sia della comunità studentesca che delle imprese, però credo che il primo risultato sia decisamente positivo e ci aspettiamo un importante risultato da quest'anno perché la platea studentesca inizia ad essere un pochettino più ricca anche nei numeri. Qualche numero, quante sono le aziende che hanno ospitato i ragazzi, hanno aderito all'alternanza scuola-lavoro? Sono oltre 20.000 e quest'anno cercheremo di far aumentare la platea delle imprese e stiamo cercando un meccanismo sia col MIUR che con la Presidenza del Consiglio per incentivare questo allargamento di platea, perché capisce che intercettare anche il coinvolgimento delle piccole, piccolissime e medie imprese potrebbe veramente allargare la platea delle imprese e aumentando la platea delle imprese si riesce a far ruotare maggiormente il numero dei ragazzi. Prima di chiudere vi ricordo che anche di lavoro, oltre che di tasse, risparmio, pensioni e sanità, si parla nei tuoi diritti, che è una guida in uscita con il Sole 24 Ore a partire da appunto domani, martedì 13 settembre, una nuova iniziativa editoriale, capire come tutelarsi, come gestire eventuali liti, ricorsi, contenziosi e non solo quello. Il primo appuntamento domani è sulle tasse, come funzionano i tributi, le verifiche sui contribuenti svolte dall'amministrazione, le contestazioni del fisco, la gestione delle fasi, delle controversie e le modalità per la loro risoluzione. Lo trovate domani in edicola con il Sole 24 Ore. Chiudiamo qua questa puntata di Focus Economia con i ringraziamenti a Pietro Lacorte in regia, Barbara Bianchi in assistenza e in redazione. Un grazie a tutti voi per l'ascolto. La trasmissione torna domani alle 17 con Sebastiano Barisoni. Una buona serata da Simone Spezia. Radio 24. La passione si sente.